falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. I love life. Amo la vita, è una frase che ha detto David Bowie. Questa è una puntata particolare, una puntata fatta a caldo, è una puntata che non ha un copione, non ha un testo, non ha autori di riferimento, tranne alcuni amici che sono qua con me a commentare questa notizia. Quando mi sono svegliato questa mattina non pensavo che alle 15:33:20 secondi sarei stato a questi microfoni a raccontare la dipartita improvvisa per tutti noi, anche se palesemente programmata da lui, ma improvvisa per noi, la dipartita di David Bowie. David Bowie è stato, faccio fatica ancora a abituarmi a parlarne al passato, è stato uno dei motivi per i quali io faccio questo mestiere, perché da ragazzo Bowie e Lou Reed campeggiavano nella mia cameretta, sui muri, perché sul piatto del mio giradischi c'erano canzoni di Bowie e Lou Reed, perché sono due personaggi che hanno segnato la strada, in particolare David Bowie, con la sua curiosità, la sua irrequietezza, la sua profondità morale, musicale e personale. E io David Bowie l'ho conosciuto in un certo modo, perché un giorno mi è arrivato questo vinile che mi prestò un mio compagno di classe, un vinile su un personaggio abbastanza strano, e misi sul piatto una canzone. Immediatamente mi sono accorto che stavo ascoltando qualcosa di diverso, qualcosa che in qualche modo andava oltre il rock che io amavo. Era Space Oddity. E stanno già arrivando un sacco di messaggi, per esempio Claudio Bonanno che ringrazia il Duca Bianco, che mi cita Heroes, Ashes to Ashes, Starman, che parla di un personaggio colto, affascinante, che ha lasciato un segno, Chiara K. Insomma, David Bowie ha rappresentato molto per molti. Molti artisti hanno cantato David Bowie, ne sono stati influenzati, perché Bowie è stato sicuramente un innovatore e uno che anticipava assolutamente i tempi, e anche i non sospetti, anche quelli che arrivavano da altri mondi, dal rock, addirittura dal grunge o dal grunge se preferite, hanno cantato David Bowie. Per esempio c'è una canzone meravigliosa, una delle prime canzoni che io ascoltavo di David Bowie, che si chiamava The Man Who Sold the World, e molti la pensano a questa canzone come canzone dei Nirvana, e invece in realtà era stato lui a cantarla per primo. Come vi ho già detto, stiamo preparando delle puntate veramente monografiche su David Bowie, e lo stavamo facendo comunque perché in questi giorni è uscito l'ultimo capolavoro di David Bowie, e la sua uscita è stata in coincidenza col suo 69esimo compleanno, perché Bowie era nato a Brixton l'8 gennaio del 1947. Con il senno di poi, probabilmente David Bowie aveva organizzato l'uscita di questo album anche come modo di lasciare un ultimo testamento morale e di congedarsi da tutti quelli che in qualche modo lo amavano e lo seguivano. David Bowie in realtà si chiama David Jones, ma quando lui iniziò a fare musica c'era un gruppo che si chiamava Monkees, un gruppo minore ma che ebbe un fuggevole successo a cavallo degli anni 60. Così lui, non volendo essere confuso con David Jones, cambiò il nome in Bowie. Il destino è stato beffardo, perché poi in realtà di questo David Jones non è rimasto quasi nulla. E come tutti, Bowie inizia suonando, facendo esperimenti, suonando in band giovanili. Dopodiché inizia a scrivere delle canzoni. La prima interessante che esce come 45 giri, che si chiama The Lost in Gnome, ci mostrava un Bowie dolce, melodico, che già si segnalava, insomma, per una voce assolutamente particolare. Quando uscì il primo album, David Bowie in qualche modo già era stato notato, ma la grande svolta doveva ancora arrivare, e forse una delle grandi svolte fu determinata da, come dire, il suo invaghirsi per qualcosa di trascendente che lui individuava nei marziani, individuava in un mondo alieno che lo affascinava molto. E in qualche modo, a un certo punto, il fatto che lui si chiedesse se c'era vita su Marte diventò una delle pietre fondamentali della sua produzione, Life on Mars. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. Il falco e il gabbiano. I didn't strive for success, I strive to do something artistically important. Non ho mai cercato il successo, ho sempre cercato di fare qualcosa di artisticamente valido. Questa è una frase che molti artisti hanno detto, ma pochi sono stati in grado di ottemperare realmente. Bene, Bowie è stato veramente un artista che ha avuto un atteggiamento quasi sprezzante nei confronti del successo, e nelle puntate che faremo su di lui, perché faremo più di una puntata su di lui la prossima settimana, ve ne parleremo e motiveremo le cose che sto dicendo, perché lui è fuggito da tutti gli stereotipi che di volta in volta gli sono stati cuciti addosso. Per esempio, agli inizi degli anni 70 finalmente Bowie esplode, ed esplode inventando un personaggio che si chiama Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che era la sua band, Ziggy Stardust e i Ragni di Marte. Un personaggio che si immaginava provenire da un mondo alieno, il famoso, cioè una delle immagini iconograficamente più forti di David Bowie: pel di carota, cappello rosso lievemente lungo dietro, imitato da milioni di persone, faceva concerti nei quali tutti si vestivano come lui e in qualche modo avevano applicato le sue norme estetiche a loro stessi. Una delle canzoni simbolo di questo cambiamento e dell'irrompere di Ziggy Stardust nel mondo del rock, prima inglese e poi mondiale, fu un'altra canzone che si richiamava alle stelle, l'uomo delle stelle, Starm. E ovviamente ho chiamato subito uno dei più grandi conoscitori di musica in Italia, dei più grandi esperti di musica, ma questo, insomma, ve l'ho già detto altre volte, ma anche avevo bisogno di qualcuno che David Bowie l'avesse conosciuto veramente. Insomma, non potevo che rivolgermi a Red Ronnie. Buongiorno, Red. Beh, non è un buongiorno, però, insomma, Bowie è uno di quelli che non ti aspetti possa mai sparire da questa terra. Ce ne sono pochi di quelli che consideri immortali, e Bowie è uno di quelli. Sì, perché non aveva neanche, come dire, certo aveva avuto una vita abbastanza turbolenta, però non era un Lou Reed, un Keith Richards, un Lemmy, cioè, di quelli totalmente, come dire, preda di una vita talmente sregolata da far supporre la loro morte in qualsiasi momento. Bowie era un grande intellettuale della musica, oltre che un grande poeta. Sì, lui era una persona molto curiosa. Io l'ho intervistato 4 volte e nella penultima intervista, perché dopo l'ho incontrata anche a Bologna, nella penultima intervista lui era più lui che faceva domande a me o veniva dietro alle considerazioni che io facevo e si metteva in discussione. Mi ricordo ad esempio che lui aveva fatto una versione di I Feel Free dei Cream e io gli chiesi: ma se tu fai I Feel Free vuol dire che ti senti libero? Lui mi ha guardato un attimo, poi ci ha pensato e ha detto: beh, non l'avevo inteso così, ma mi piace questo punto di vista. E poi si è visto proprio che lui ci ha pensato e ha detto: sì, io mi sento libero. Quindi era una persona curiosa, una persona calma, che non ha mai fatto dichiarazioni politiche, però era molto rivoluzionario. Lui, tu guarda anche come ha pianificato la sua uscita di scena, ha pianificato in una maniera incredibile. Lui che è il Duca Bianco, che è Starman, l'uomo delle stelle che hai appena fatto sentire, poi fa una stella nera, un album tutto nero, ed esce contemporaneo con la sua morte, prima, un pelo prima della sua morte, con Lazarus, come dire, come Lazzaro io risorgerò. Sì, sì, e pubblica un video fatto in un letto d'ospedale in cui dice I'm in heaven. Sì, non può essere un caso, assolutamente. No, lui sapeva esattamente che stava morendo e ha pianificato. La cosa che mi piace è che il suo disco era prima in classifica, prima ancora della morte. Poi adesso tutti lo stanno cercando. Io oggi ho recuperato il vinile, che è spettacolare, tutto nero. Stasera lo mostrerò a Roxy Bar TV, perché oltre a Pico e a Laura Bono dedicherò un piccolo spazio a David Bowie. Sto digitalizzando, certo, le sue interviste per vedere che cosa far vedere. Però lui era un qualcosa che andava oltre. Oggi mi hanno chiesto: ma lui era rivoluzionario, piaceva rivoluzionario? Io dissi no, perché a me piaceva Bowie i primi anni 70 e il movimento studentesco, che era omofobo. Io rischiai le botte perché venni visto al liceo Berchet con un disco di David Bowie, e quindi l'ultrasinistra odiava questo genere di personaggi perché avevano i capelli corti, erano dandy, eccetera eccetera. Quindi l'ultrasinistra allora era super omofoba, quindi sì, era rivoluzionario anche averlo David Bowie in Italia. Sì, comunque vedi Enrico, tu fossi il primo che mi focalizzassi un punto, cioè tu mi dicesti: oggi come oggi queste parti stiamo facendo cambiare mestiere, tu ti riferivi agli italiani, ai De Gregori, ai Fabrizio D'André, eccetera, con questo sistema dei talent, eccetera. E a me mi sei venuto in mente perché ogni volta che scompare uno di questi grandi, io sostengo che si viene a togliere un volume enorme nella biblioteca della musica che non viene sostituito. Vabbè, certo, che è insostituibile. Il dramma è che Bowie oggi non sarebbe uscito, come Mogol mi ha detto che Lucio Battisti non sarebbe uscito, ma neanche David Bowie. Tant'è vero che David Bowie, ci fu a Londra una serata di imitatori di Bowie, cloni di Bowie, sì, e tu potevi entrare solo se eri abbastanza Bowie. Lui si presentò per giocare a questa serata, per vedere com'erano, e non lo fecero entrare perché dissero che non era abbastanza Bowie. Chiaramente non sapevano. E certo, perché lui era già oltre. Esatto, però questo ti fa anche capire che nel mondo dei cloni, perché oggi noi facciamo tutti cloni, i talent creano dei cloni, ecco, nel mondo dei cloni lui non aveva spazio. Perché lui era un'entità individuale che oggi non avrebbe spazio. Grazie Red, sei stato preziosissimo, ti cercherò nei prossimi giorni quando facciamo le puntate monografiche su David Bowie. Ti abbraccio. Ciao, ciao Luigi. Il falco e il gabbiano. So from my standpoint, being an artist, I like to see what the new construction is between artist and audience. In quanto artista mi piace esplorare ciò che si crea di nuovo nel rapporto tra l'artista e il suo pubblico. Noi stiamo parlando a caldo di David Bowie. La canzone che state ascoltando in sottofondo, che è quella con la quale abbiamo chiuso la parte precedente, si chiama Rock and Roll Suicide. È una canzone importante perché una delle caratteristiche di Bowie era proprio l'irrequietezza. Il personaggio di Ziggy Stardust diventa una star planetaria, il successo lo raggiunge in maniera totale e incondizionata nel momento in cui Bowie potrebbe godersi il grande successo di Ziggy Stardust and the Spiders from Mars e di tutto quello che ne consegue a livello di dischi e concerti. Lui fa un concerto all'Hammersmith Odeon di Londra il 3 luglio del 1973. Alla chiusura di questo concerto lui annuncia al suo pubblico che se ne sta andando per sempre, nel senso da oggi non vedrete più Ziggy Stardust, e parte proprio tra le urla disperate del pubblico. Peraltro c'è un bootleg che racconta proprio questo, la prossima volta ve lo porto. Tra le urla disperate della gente lui inizia a cantare Rock and Roll Suicide, il suicidio del rock and roll. Questo è un punto fermo della sua vita, anche perché pochi mesi dopo riapparirà al pubblico in una versione completamente diversa, e di questo poi vi racconterò. Tutto questo fino ad arrivare a un ultimo album. L'ultimo album del quale c'è una recensione bellissima che ha scritto un mio amico che si chiama Michele Monina. Dunque, questa recensione arriva in un momento in cui altri giornalisti, diciamo un pochino più di regime rispetto a Michele, avevano scritto che erano molto perplessi, che questo album era un album tetro, era un album non commerciale. Sono certo che gli stessi giornalisti nei prossimi giorni scriveranno che Lazarus era un capolavoro, ma insomma la vita va così. Tutto questo per dirvi che Michele Monina è qua con noi, lo abbiamo al telefono. Buongiorno Michele. Buongiorno a tutti, ciao Enrico. Ciao, e dimmi qualcosa intanto di questo album, perché la tua recensione mi ha colpito. Io ritengo che sia uno dei più belli album degli ultimi decenni, a prescindere, lo ritenevo anche ieri, e quindi sì, no, ne avevamo anche parlato. Esatto, io credo, ho scritto questa recensione a caldo, è uscita quando ho ascoltato l'album, prima che uscisse, e quindi fosse ascoltabile per tutti. Io credo che sia un grande album, io sentito oggi lo diventa forse anche di più, perché si riescono a capire alcuni passaggi nei testi che ci erano ovviamente oscuri, ma sia un grande album perché Bowie fa ancora una volta una cosa che ha sempre fatto, appunto in qualche modo cambia pelle, gioca con i generi musicali, li plasma. E questa volta lo fa senza l'impellenza di indicare una strada, come invece era capitato a volte in passato, certo. Per quella libertà che io imputavo all'età, in realtà, cioè dicevo, ormai ha fatto così tante cose importanti che non ha più bisogno di inseguire una strada da percorrere per primo e facendo da apripista, può permettersi anche di andare in un vicolo cieco. Credo in realtà ci fosse dietro un altro discorso, perché rivista oggi è difficile dare una lettura, perché emotivamente siamo tutti colpiti da questa morte, però credo che in realtà lui abbia semplicemente fatto di una cosa così banale come la morte un po' un'opera d'arte. Sì. Lazarus, che è il singolo che in questi giorni non è stato molto suonato, ma immagino sarà molto suonato. Sì, lui esce con un singolo nel quale dice: adesso sono in cielo. Esatto, sì, è una canzone che parla proprio di, poi ho sentito Lazarus, quindi direi che già nel titolo era nascosto un po' tutto. Lui stavolta, e oltretutto in quel brano ci sono questi fiati che suonano un po' come una marcia funebre che... Sì. Racconto un piccolissimo aneddoto personale, ma perché credo che giustamente in questi casi bisogna anche andare sul personale. Io ho saputo della morte questa mattina presto quando accompagnavo i miei figli a scuola e stavo ascoltando Lazarus in macchina quando mi è arrivata una telefonata che mi avvisava di questa notizia, e la cosa, come dire, un pochino mi ha toccato ulteriormente. Posso dire che Black Star è un album sicuramente non commerciale, sì. Non fosse che probabilmente l'aver fatto questo disco sapendo di avere i giorni contati forse è stato un altro colpo di genio del maestro, cioè ha reso commerciale anche un lavoro difficile, costringerà molti a sentire una musica che non è poi così. Sì, ha fatto della sua morte la sua ennesima opera d'arte. E Michele, io credo che una delle grandi caratteristiche di Bowie, forse la caratteristica per la quale verrà ricordato per me come il più grande, ma comunque come uno dei più grandi, è stata proprio quella di essere una persona completamente curiosa e assolutamente irrequieta. E prima stavo raccontando di quando lui all'apice del successo uccide il suo personaggio Ziggy Stardust per riapparire come Duca Bianco, ed è andato avanti tutta la sua vita in questo modo. Nell'ultimo album lui fa suonare rock dei jazzisti praticamente, e comunque si affida, a parte al fedele produttore Tony Visconti che più volte è ricomparso nella sua carriera, però si affida a dei musicisti prendendo il meglio che loro potessero dargli. Sì, questa è la sua peculiarità, e in questo credo che sia, oltre che una grande rock star, una grande pop star. Faccio questa distinzione perché appunto solitamente la rock star è quella che rompe i canoni, mentre la pop star è un po' tirata su, certo, dal sistema musica. Sì. Però lui ha praticato veramente il pop innalzandolo ai massimi livelli, no? Sì, sì. Ci ha sempre dato la sensazione di essere lui al timone, di non essere mai portato da qualcun altro. Sì, io per questioni anagrafiche ho conosciuto Bowie in quello che i cultori del rock indicano come il suo periodo peggiore, cioè negli anni 80, quando collaborava, sì, con Rogers degli Chic e faceva, sì, esatto, quei brani come Let's Dance. Ma devo dire che all'epoca ero un ragazzino, facevo appunto le scuole medie, ma aveva colpito perché non faceva esattamente la stessa cosa che stavano facendo tutti negli anni 80, stava già guardando altrove, perché questa è un'altra sua caratteristica. Ha spesso buttato semi all'interno di un album di quello che avrebbe poi fatto negli album precedenti, ha aperto volendo anche la new wave, la world music, metteva influenze etniche nei suoi brani negli anni 70, che è una cosa che non faceva praticamente nessuno, anche se poi giustamente viene identificato, non so, Peter Gabriel o David Byrne vengono, certo, identificati come i padri della world music. Lui, in questa sua curiosità famelica, si è sempre guardato intorno, ha sperimentato appunto aprendo il percorso a tanti altri che si sono simpaticamente accodati in strade che erano già battute, e qui sta la genialità. L'ha fatto mantenendo sempre un suo stile, perché faccio un esempio. E poi la sua voce è stata comunque un denominatore comune imprescindibile, cioè alla fine, sì, poi partiva lui a cantare e tutto il bello. Sì, e automaticamente i suoi brani. L'imprimatore era anche quello. Sì, ma c'è un suo video degli anni 90 di Earthling, che è I'm Afraid of Americans, in cui c'è come ospite Trent Reznor dei Nine Inch Nails. Sì. Che in qualche modo era il padre del genere che Bowie stava praticando lì, cioè il noise, l'industrial. Sì. In questo video però succede questa cosa che è curiosa, c'è Bowie che è inseguito per tutto il video da, sì, Trent Reznor, non è lui che segue Trent Reznor. Sì. Io non credo che sia un video casuale, poi lì chiaro c'era, no, di mezzo un inseguimento tipo spionaggio. Ma forse si scusava per averlo vampirizzato. Sì, un po' sì, però secondo me è vero che Reznor senza Bowie non ci sarebbe stato come tanti altri, perché certi semini lì stava, già negli anni 70 aveva iniziato a lavorare su un certo tipo di elettronica che poi i Nine Inch Nails hanno giustamente sviluppato negli anni 90. Bowie è... Io chiudevo la mia recensione non sapendo cosa sarebbe successo con una frase dicendo Bowie c'è, come in certe scritte sul, sì, sui cartelloni dell'autostrada. Io credo ci sia, poi è chiaro, fingere che non ci sia, cioè sapere che non ci saranno sui nuovi album colpisce, e questo probabilmente è un lutto paragonabile a quello che si prova, certo, per persone che si conoscono di persona. Per questioni personali, assolutamente, sì. Però c'è, cioè la sua musica è fortunatamente c'è ancora per tutti. Grazie Michele, sei stato gentilissimo e complimenti per il tuo lavoro di uomo libero. Grazie, grazie a voi, un saluto. Lazarus. Drop my cell phone down below. Questa è una puntata particolare che sta diventando un happening. Qui alle 4:20 sono arrivati un sacco di messaggi, alcuni insomma li saluto: Cristina Del Vigo, Vittorio Cobianchi, Camilla Blu, Mirko, Massimiliano, Alessandro, un sacco di amici che stanno seguendo questa puntata così strana, così particolare, così anomala. Intanto dagli altri studi ogni tanto si affacciano ragazzi, persone che sta lavorando a Radio 24. C'è una troupe di studio aperto che è venuta anche così a raccogliere un po' di impressioni a caldo. Insomma, la notizia della morte di David Bowie è arrivata, è piombata come un fulmine a ciel sereno, in un mondo che stava celebrando l'uscita del suo nuovo album, che stava guardando questo meraviglioso video della canzone di Lazarus, un video ahimè rivelatosi profetico, quasi un testamento morale. Insomma, la morte di David Bowie, come sempre accade, ma è in questo caso suffragata da 50 anni quasi di produzione artistica di primo livello, ha gettato molto scompiglio e molto dispiacere nel mondo della musica. Lo dicevamo prima e lo ridiremo la prossima settimana quando parleremo diffusamente e a mente fredda, a bocce ferme, della vita di David Bowie. Abbiamo raccontato quanto Bowie fosse stato influente per i musicisti di tutto il pianeta, e io ho iniziato questa puntata dicendovi che probabilmente uno dei motivi per cui io ho iniziato a scrivere canzoni è stato David Bowie, è stato Bowie, Lou Reed, è stato quel mondo così particolare, così diverso da tutto quello che si ascoltava, così rivoluzionario. Ecco, Bowie è sempre stato un rivoluzionario, me lo ricordo da quando da ragazzino, come tutti, ho iniziato suonando e facendo le canzoni degli altri, e tra le canzoni degli altri che io amavo di Bowie, quando c'era da scaldare il pubblico, e per pubblico intendevo le 30 persone della palestra di un liceo o al massimo le 35 persone del bar di qualche amico che ci faceva suonare, noi ricorrevamo sempre a una canzone in cui David Bowie dimostrò grandissima dimestichezza anche con il rock più duro, che era The Gin Genie. Anni dopo questa canzone mi sono preso la soddisfazione di rinciderla ed era la mitica The Gin Genie. E poi dopo è arrivato il soul, è arrivato il Duca Bianco, sono arrivati i fiati Bowie che cambia tutto, dalla pettinatura all'immagine. E poi arriva il Bowie più sperimentale, arriva l'incontro con Brian Eno, arriva Berlino, e nel frattempo arrivano altri incontri importanti. Intanto Lou Reed viene in qualche modo rimesso in carreggiata e in vita da David Bowie, perché Lou Reed, dopo lo scioglimento, del suo abbandono dai Velvet Underground, vive periodi bui sia dal punto di vista umano che dal punto di vista artistico e anche di salute. Bene, Bowie lo rimette in carreggiata e produce Transformer, che fu l'album che in qualche modo rilancerà Lou Reed. E non solo, perché c'è un altro personaggio dell'America tagliata fuori, dell'America disperata, che cantava in un gruppo che si chiamava gli Stooges. Questo signore si chiama Iggy Pop. Bene, Iggy Pop trova David Bowie sulla sua strada ed è la sua fortuna, perché Bowie gli produce i due album, credo, che rimarranno a imperitura memoria di Iggy Pop, che sono The Idiot e Last for Life. Insomma, tante cose fatte. E stavo dicendo del periodo berlinese di Brian Eno e poi l'incontro con la dance, tutte cose che lui decodifica, ristruttura a suo modo, inventando sempre e precedendo i tempi. Tutto questo e di tante altre cose noi parleremo nelle due puntate, nelle quali tutti questi colpi d'ala che io oggi ho accennato soltanto col cuore ve li riproporrò anche come dire, in maniera più organica. Nel frattempo ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto, che hanno voluto essere con noi, ringrazio le persone che hanno parlato, ringrazio Red Ronnie e Michele Monina. Insomma, una giornata molto dura per gli amanti del rock, durissima per me, che ho vissuto volentieri insieme, perché quando succedono queste cose è bene stare con gli amici e cercare di rimanere eroi almeno per un giorno. E questo è un nobilissimo momento di David Bowie, che diventa poi la sua canzone più conosciuta. E come sempre, insomma, le canzoni più conosciute possono diventare delle trappole, però è un bene che Bowie venga ricordato anche da quelli che magari conoscono poco di musica per una canzone fantastica. Fu anche la colonna sonora del film I ragazzi dello zoo di Berlino. Insomma, è una canzone che ha segnato un'epoca, ha cavalcato e ha traghettato il mondo dal glam alla musica elettronica al punk, sempre con David Bowie al comando. Insomma, questo 10 gennaio è una giornata particolare, sì, questo 11 gennaio è una giornata particolare, una giornata che non avremmo voluto vivere, come dicevo prima, se non altro io l'ho passata parlando e parlandone con degli amici, e quindi in qualche modo abbiamo esorcizzato questo dispiacere, che è compensato da anni e anni di musica e di meravigliose canzoni e di meravigliosi esperimenti che sono diventati arte e sono diventati musica popolare. Tutto questo David Bowie, del quale invece parleremo lunedì e martedì prossimo e in maniera, come dire, più organica e rilassata, con una settimana di tempo per metabolizzare questo dispiacere. E io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri.